Mezzogiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il governo mette la fiducia anche al Senato sul decreto lavoro. Nella nuova versione, multe per le aziende che sforano il tetto dei contratti a termine, non più l'obbligo di assunzione. La donna uccisa a Firenze, arriva il racconto di un'altra prostituta che dice subì le stesse vizie. Tra poco a effetto giorno Michele Giuttari, che comandò il caricato della ricerca del mostro di Firenze. Accordo con eBay contro il falso Made in Italy, saranno rimossi gli annunci segnalati da autorità e consorzi, anche di questo parleremo tra poco con il ministro dell'agricoltura Martina. Critiche ma stazionarie, le condizioni del tifoso del Napoli ferito nel giorno della finale di Coppa Italia, sta per iniziare la relazione del ministro Alfano in Parlamento sui fatti. Ci sono altre 11 studentesse in Nigeria rapite dagli estremisti islamici di Boko Haram, ora sono quasi 300, il mondo si mobilita, Obama dice è straziante. Al mercato il piano Marchionne non sembra piacere, il titolo Fiat in borsa perde oltre l'8%, ci sono anche prese di profitto dopo la corsa dei giorni scorsi. Il caso Stamina porta ad uno scontro tra Lombardia e Ministero, la regione sarebbe in cerca di ospedali disposti ad usare il metodo, tra poco ospite l'assessore. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Vi trasmettiamo oggi, lo sentite da un po' di rumore di sottofondo, dal Cibus che si svolge a Parma, edizione 2014. Se ci volete venire a trovare, venire a vedere anche come funziona la radio. Siamo nel padiglione 4, stand 36. C'è sempre, come sempre, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, oppure ci potete scrivere via SMS al 349-238-6666. Apriamo questa edizione dunque parlando del decreto lavoro. Ci colleghiamo con il Senato e con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, il punto, buongiorno. Sì, buongiorno. Il governo blinda dunque il decreto lavoro qui al Senato ricorrendo alla fiducia che sarà votata già oggi nel pomeriggio alle 15. Ci saranno le dichiarazioni di voto e poi a seguire la prima chiama all'aula di Palazzo Madama si esprimerà su un maxi emendamento che recepisce le modifiche apportate in commissione frutto dell'intesa all'interno della maggioranza. La principale riguarda i contratti a tempo, salta infatti l'obbligo per le aziende che sforano il tetto del 20% di assumere questi lavoratori a tempo indeterminato. D'ora in poi dovranno invece pagare delle multe tra il 20 e il 50% dello stipendio. Altre novità riguardano l'apprendistato, dove si prevede che la formazione possa essere svolta anche dalle imprese, dove si alza a 50 addetti il tetto oltre il quale scatta la stabilizzazione di una quota di apprendisti del decreto lavoro. Simone, si sta parlando e tanto al congresso della CGIL a Rimini, ospiti oggi il ministro del lavoro Poletti e il leader della FIOM Landini. Dopo il botta e risposta di ieri tra Camusso e Renzi, oggi il ministro ha teso la mano al sindacato ricordando però che si contratta ma è poi il governo a decidere. Quanto a Landini, ha presentato una lista alternativa a quella della maggioranza congressuale spiegando: siamo spaccati grazie al segretario generale. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Altri aggiornamenti arrivano sulle vicende della finale di Coppa Italia. Dunque, tra poco sta per iniziare in questi minuti la relazione del ministro Alfano in Parlamento. Vi aggiorneremo tra poco, intanto facciamo un punto sullo stato dei fatti. È il giorno degli interrogatori di garanzia per 3 delle 4 persone arrestate dopo i disordini scoppiati prima della finale di Coppa Italia. Il primo a rispondere alle domande del GIP dovrebbe essere Daniele De Santis. Accusato di tentato omicidio, l'ex capo ultraromanista ieri è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli dall'ospedale dove era ricoverato. Nonostante l'esito parzialmente negativo dell'esame dello STUB, gli inquirenti restano convinti che sia stato lui a ferire a colpi di pistola i 3 tifosi del Napoli. Gli investigatori stanno cercando di capire se l'uomo abbia agito con dei complici, ma escludono che a fare fuoco sia stata anche un'altra arma, oltre alla beretta ritrovata sul luogo della sparatoria. Sempre a Regina Coeli si svolgerà anche l'interrogatorio di Alfonso Esposito, l'ultra partenopeo fermato con l'accusa di rissa. Il GIP dovrebbe poi trasferirsi al Policlinico Gemelli per sentire anche Gennaro Fioretti, l'altro tifoso napoletano che ha ricoverato per una ferita alla mano. Non è previsto invece nessun interrogatorio per Ciro Esposito, il più grave dei 3 feriti. Anche lui è indagato per rissa. Le sue condizioni sono stazionarie ma restano critiche. Il giovane è intubato e sedato, spiega il bollettino emesso stamattina dai medici del Gemelli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È una giornata piuttosto fluida dal punto di vista politico dopo le tensioni di ieri sulle riforme. A parlare questa mattina Silvio Berlusconi e pochi istanti fa anche il candidato del Partito Socialista Europeo alla guida della Commissione, Martin Schulz. Facciamo un punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, Simone, allora una seduta notturna molto turbolenta, quella in cui il governo ha ottenuto il voto in Commissione Affari Costituzionali al Senato sul testo base riguardo al disegno di legge sulle riforme costituzionali, lode del popolare Mauro, ma la notizia è che è passato l'ordine del giorno a firma Roberto Calderoli sul Senato elettivo, vera spina nel fianco di questa riforma. Sì, anche quindi di Forza Italia, e il voto fa esultare comunque la maggioranza. Il Premier Matteo Renzi ha twittato: approvato il testo base del governo, molto bene, non era facile, la palude non ci blocca, è proprio la volta buona. Questa mattina c'è da segnalare il botta e risposta con il Movimento 5 Stelle e il governo per Nicola Morra. In commissione ieri si è assistito in diretta alla trattativa telefonica tra il ministro Boschi, il Premier e Silvio Berlusconi. Renzi chiede a Morra: ci dica qual è la contropartita per la trattativa con Berlusconi. Il PD risponde che il Movimento 5 Stelle, pur di non cambiare, vota con il padre del Porcellum, ovvero con Calderoli. Critico Pippo Civati, che dice praticamente: la notizia è che il Senato sarà elettivo, attaccare Chiti per dare spazio a Calderoli non è stata una bella idea. E da poco comunque ha parlato anche Berlusconi, che però ha parlato soprattutto di televisione, ha detto che nelle fiction Rai si fa pubblicità alla mafia, mentre Martin Schulz, come hai detto tu Simone, ha ricordato gli attacchi di Berlusconi alla Germania, che ha definito di nuovo vergognosi. A te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Le voci si rincorrevano da un paio di settimane di uno sbarco imminente a Wall Street di Alibaba, che è il colosso dell'e-commerce cinese. Ieri sera sono stati presentati documenti per il collocamento azionario. La stessa Alibaba ipotizza un collocamento da $1 miliardo. In realtà gli analisti parlano di oltre i 16 miliardi di dollari della IPO di Facebook del maggio 2012, toccando forse quota 20 miliardi di dollari, che sarebbe il record storico. Sempre in tema di mercati, c'è da segnalare che oggi il titolo Fiat va particolarmente male all'indomani della presentazione del piano Marchionne, perde circa l'8%. Naturalmente approfondiremo come sempre alle 13.30 nello spazio dedicato ai mercati. Adesso andiamo all'estero per parlare della vicenda, vogliamo tornare a batterci sulla vicenda delle ragazze nigeriane rapite dagli estremisti islamici di Boko Haram, che, come sapete, come vi abbiamo raccontato, nella loro rivendicazione dicono di volerle vendere come schiave o di farle sposare forzatamente. La notizia è che ci sono state rapite altre ragazze, 11 e non 8 come si era detto ieri. In totale il numero è di quasi 300 persone. Si sta cercando di mobilitare il mondo. Obama parla di fatti strazianti. Saluto Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF in Italia. Buongiorno Iacomini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, che cosa si può fare, che cosa possiamo fare e se ha senso fare qualcosa vista la situazione della Nigeria? Ma sì, diciamo che la situazione della Nigeria è molto particolare, è un paese che io ho definito un po' un gigante d'argilla, visto che le scorse settimane era passato in testa, chiamiamola così, in questa classifica virtuale dei paesi africani tra il più sviluppato, diciamo, passando davanti al Sudafrica. Quindi in realtà potremmo avere di fronte un quadro di un paese in grande sviluppo, che invece in realtà proprio nel nord, dove imperversano queste truppe islamiche di Boko Haram, vive una situazione particolare. Lo voglio ricordare perché nel nord di questo paese ci sono 340.000 bambini che noi assistiamo, che vivono in condizioni di malnutrizione acuta. Che cosa si può fare? L'UNICEF già nelle scorse settimane era fortemente preoccupato perché c'erano stati un numero altissimo di attacchi alle scuole. Nel mese di febbraio, volevo solo ricordarlo, questi uomini erano entrati in alcuni luoghi e avevano ucciso 53 bambini tra i 13 e i 17 anni proprio nella zona di Bunigliadi, cioè nello stato di Yobe. È chiaro che questi ultimi episodi lasciano intravedere un quadro incredibile. Ancora una volta, e ci tengo a dirlo, sono le bambine a pagare un prezzo altissimo. Quelle bambine, le stesse di cui parla Malala poi nel suo appello al mondo, che è stato raccolto dovunque, chiedendo che cosa poi alla fine? Chiedendo che vengano rilasciate, ma soprattutto ribadendo con forza l'importanza dell'istruzione, perché vedi, Boko Haram non fa altro che mortificare quelle bambine, quelle ragazze che studiano, che vogliono andare a scuola, e la scuola per noi è strategica, lo diciamo in tutti i luoghi, perché serve per comprendere e opporsi successivamente poi a fenomeni come questi. Matrimoni sogni precoci, allora, di cui parla il capo proprio di Boko Haram, nel mondo sono diffusissimi, ce ne sono 70 milioni di bambini sottoposti a questi fenomeni. Allora Iacomini, ci chiediamo che cosa possiamo fare. Quello che possiamo fare noi come giornalisti è tenere alta l'attenzione. Io intanto la ringrazio e le auguro buona giornata. Le auguro buona giornata e andiamo alle cronache invece da Firenze, alla vicenda del maniaco o forse del serial killer Ubaldo Cianciulli per gli aggiornamenti. Buongiorno. Buongiorno Simone, sì, gli inquirenti diciamo sono ripartiti da Marta, la prostituta rumena che un anno fa subì una violenza molto simile a quella che domenica notte ha portato alla morte Cristina Zanfir. La donna ha raccontato di essere stata avvicinata e aggredita da un uomo italiano di 50-60 anni di età, basso e con pochi capelli, un primo identikit, quindi una pista da seguire, gli investigatori ce l'hanno e hanno anche una traccia di DNA isolato in occasione di quella violenza sul nastro adesivo, sempre proveniente dall'ospedale di Careggio, che coincide con altri due campioni ritrovati su altrettanti casi di violenze su prostitute. Marta fu legata nuda alla stessa sbarra dove domenica è stata seviziata Cristina. C'è un filo che potrebbe collegare questi quattro casi, ma polizia e carabinieri stanno setacciando almeno altri 3-4 episodi avvenuti nelle province di Firenze e Prato negli ultimi 8 anni, e per questo il PM Paolo Canessa sta coordinando tutte le indagini che conducono verso questi casi molto simili fra loro. La pista del maniaco seriale ormai è chiara. Intanto oggi l'autopsia sul corpo di Cristina Zanfir dovrebbe fornire qualche elemento in più, le cause della morte, perché dai rilievi esterni non sono emerse lesioni talmente gravi da condurre al decesso. Probabilmente le condizioni di salute della ragazza, molto magra e con un passato da tossicodipendente, la notte trascorsa nuda potrebbero averla compromessa irrimediabilmente. E per il momento è tutto. Grazie Ubaldo Cianciulli, e come già vi dicevamo nei titoli, di questo torneremo a parlare più avanti con Michele Giuttari, che guidò il pool che ricercò il mostro di Firenze all'epoca. Andiamo in Sicilia, dove non si fermano gli sbarchi. Trasbordati dalle solite pericolose bagnarole alle navi militari italiane, oggi altre 800 persone sono arrivate in Sicilia. A Porto Empedocle la nave Libra della Marina ha accompagnato 468 migranti, gli altri arriveranno a Pozzallo. Ieri 900, tra cui 190 minori, erano stati accompagnati a Trapani, dove il prefetto aveva già accolto 400 persone il 1° maggio. In migliaia, insomma, sono arrivati in Sicilia nelle ultime settimane. Sull'isola però non c'è più possibilità di accoglienza, ma nemmeno al nord. Basti pensare ai siriani alloggiati alla stazione centrale di Milano qualche giorno fa. Non è un'emergenza solo italiana questa. Il naufragio di un barcone 2 giorni fa in Grecia ha provocato 22 morti, mentre la frontiera dell'enclave spagnola in Marocco, Melilla, è stata assaltata da centinaia di persone. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo il quadro dalla Sicilia. Passiamo a parlare dell'accordo che è stato raggiunto ieri sera per lo scambio in materia di informazioni fiscali, che pone sostanzialmente fine, o dovrebbe porre fine, al segreto bancario. E parliamo soprattutto della Svizzera per quanto ci riguarda. Saluto Alessandro Galimberti, al Sole 24 Ore. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Simone. Che ci accompagni sempre su questi temi. Alessandro, io voglio capire l'effettività di questo accordo, quando partirà questo scambio di informazioni e che cosa consentirà di scoprire alle nostre autorità fiscali. E allora, annunci ne sono stati fatti in questi anni verso l'addio al segreto bancario della Svizzera e da ieri anche Singapore. Diciamo che ieri il quadro è cambiato radicalmente, perché in sede OCSE a Parigi, l'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo, ne fanno parte 34 paesi occidentali ma anche dell'Asia, tutti i paesi più sviluppati. Questi due paesi, quarta e quinta piazza finanziaria mondiale, hanno accettato di aderire alle regole imposte dagli Stati Uniti con il FATCA. Cosa comporta questo? Scambio automatico di informazioni relativi agli investitori stranieri. Tradotto in parole molto semplici, dal 2017, quando questi accordi avranno effettività anche per la Svizzera e Singapore, tutti gli intermediari finanziari, vuol dire le banche, vuol dire le fiduciarie, vuol dire qualsiasi società di gestione basata in Svizzera, parliamo della Svizzera che è quello che ci interessa, dovranno comunicare costantemente e automaticamente all'Agenzia Fiscale Italiana, all'Agenzia delle Entrate, direttamente tutte le posizioni dei contribuenti italiani, dei cittadini italiani che risultano non contribuenti svizzeri e quindi contribuenti italiani. Significa che le disponibilità su conto corrente, di depositi, tutti i rendimenti di capitale che poi saranno soggetti a tassazione in Italia. Quindi dopo tanti annunci, la fine del segreto bancario svizzero ieri è stata annunciata, ora ci saranno alcuni passaggi intermedi, la firma di un accordo formale a fine maggio, dopodiché dovranno essere recepiti dagli ordinamenti statali attraverso leggi, ma dal 2017, termine ultimo, Svizzera e Singapore si allineeranno allo scambio automatico di informazioni. Fine del segreto bancario, fine degli scrigni occultati al fisco. Grazie ad Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore. Un'ultima notizia appena battuta dalle agenzie: il procuratore di Ancona Elisabetta Melotti ha aperto un fascicolo contro ignoti, per ora senza ipotesi di reato, sull'alluvione che vi abbiamo raccontato ampiamente anche nei giorni scorsi, che ha colpito Senigallia e le zone limitrofe. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ha messo la fiducia anche sul decreto lavoro. Nella nuova versione, multe per le aziende che sforano il tetto di contratti a termine e non più l'obbligo di assunzione. La donna uccisa a Firenze, arriva il racconto di un'altra prostituta che dice subì le stesse sevizie. Critiche, ma stazionare le condizioni del tifoso del Napoli ferito nel giorno della finale di Coppa Italia. Sta iniziando la relazione del ministro Alfano in Parlamento sui fatti, ne parleremo tra poco. Ci sono altre 11 studentesse in Nigeria rapite dagli estremisti islamici di Boko Haram. Ora sono quasi 300. Il mondo si mobilita. Obama dice è straziante. E ci ha raggiunti nei nostri studi qua al padiglione 4, stand 36, se volete venire a trovarci, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con lei vogliamo partire in realtà da qualcosa che presentate oggi e che ci sembra un esperimento molto interessante e forse unico, ma questo lo chiediamo a lei, e che riguarda un accordo con eBay per la tutela del vero Made in Italy. Ci spiega come funziona? Ma in poche battute, intanto sono molto orgoglioso che l'Italia, il mio ministero, insieme all'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche e a eBay abbia siglato questo protocollo che è unico nel suo genere. Ci siamo posti il tema di rafforzare gli strumenti di tutela e di promozione delle eccellenze agroalimentari italiane sul web. È una grande frontiera che ha potenzialità enormi e però anche diversi rischi in termini di contraffazione, di rischio in particolare che i prodotti di qualità italiani vengano appunto contraffatti. Con questo protocollo, per la prima volta, con eBay, quindi con un grande soggetto del web globale, noi perfezioniamo una serie di strumenti che da una parte hanno l'obiettivo di segnalare le violazioni che circolano sulla rete, in particolare per quel che riguarda le DOP e le IGP nazionali. Dall'altra, quest'idea anche di una prima reazione a questo fenomeno. In particolare c'è un meccanismo sostanzialmente di notifica delle violazioni e un incrocio con noi per quel che riguarda la rimozione di annunci falsi legati all'agroalimentare italiano. Cioè, in sostanza, eBay si impegna a rimuovere il falso italiano quando segnalato dal suo archivio, dai suoi annunci sostanzialmente. E questo è un punto interessante che si collega direttamente a quelli che possono essere gli obiettivi per il Made in Italy italiano. Ieri sono circolate delle cifre interessanti, si parla di un passaggio nel giro di 10 anni da 26 miliardi a 70 miliardi di euro di export. È un obiettivo credibile secondo lei? Assolutamente sì, basta vedere la tendenza di questi ultimi anni, il potenziale incredibile che abbiamo. Per quel che ci riguarda, noi abbiamo lanciato un obiettivo che io penso veramente perseguibile. Nel 2020 toccare quota 50 miliardi di export. Ma come? Bisogna continuare a fare il lavoro che abbiamo impostato anche in quest'ultimo periodo. Io sono molto grato alla collaborazione che abbiamo costruito tra Ministero delle Politiche Agricole e Ministero dello Sviluppo. economico, penso in particolare al lavoro del vice ministro Calenda, con cui ormai abbiamo una cabina di regia, una task force quotidiana sull'agroalimentare. Anche perché forse troppo spesso si è delegato proprio solamente al suo ministero, al ministero che lei adesso guida, appunto, la politica sull'agroalimentare italiano, mentre invece è una delle industrie maggiori di questo paese. Io dico che tutti noi dobbiamo renderci conto che in questo tempo e con i mercati internazionali che evolvono in questo modo, noi non abbiamo più motivo di dividerci tra noi, né dentro le istituzioni, tra chi fa che cosa, quasi ad essere gelosi del mestiere degli altri o comunque sempre ad avere questo problema che non sia qualcun altro ad occuparsene, né io penso per l'intero comparto agroalimentare, cioè noi dobbiamo richiamare tutti alla massima unità. Stiamo facendo un buon lavoro perché ad esempio nelle trattative sui nuovi accordi commerciali che si sono sviluppati anche recentemente, penso a quello canadese, penso a quello aperto ancora oggi con gli Stati Uniti d'America, noi stiamo cercando di fare un salto di qualità soprattutto nella tutela delle nostre indicazioni geografiche e su alcuni temi molto tecnici ma maledettamente importanti per noi. Se penso ad esempio a tutta la partita delle barriere non tariffarie che spesso alcuni paesi promuovono anche per ostacolare la penetrazione dei nostri prodotti in giro per i loro mercati, lì c'è un fronte di battaglia, di confronto in ambito internazionale che noi stiamo cercando di consolidare, non solo presidiare, di consolidare nelle trattative. Molto complicato. E tutto questo però lo deve fare con risorse che inevitabilmente vanno a scarseggiare. C'è un programma di tagli che riguarda anche il suo ministero. Ci spiega un attimo come intendete agire, come intende reggere il ministero a fronte della spending review? Guardi, io l'ho detto anche in altre occasioni, credo che tutti dobbiamo fare la nostra parte, quindi il ministero non si sottrarrà ad un'operazione di revisione dei costi interni e quindi delle spese. Naturalmente il primo step è ridurre il più possibile i costi, diciamo, di struttura senza venir meno all'efficacia dei nostri interventi. C'è la possibilità di farlo. Vedrete che prossimamente, ad esempio, nella Galassia... Ci dice quanto riesce a tagliare quest'anno? Guardi, noi abbiamo già tagliato diversi milioni di euro nel biennio precedente. Taglieremo ancora prossimamente. Le dico una cosa molto concreta, ad esempio in alcune società collegate al Ministero noi passeremo dai consigli di amministrazione di 3-5 persone, oggi di 5, ad amministratori unici, perché talvolta è assolutamente naturale e possibile passare dai consigli all'amministratore unico. Stiamo riorganizzando le strutture, al Senato c'è una discussione aperta con il collegato agricoltura alla legge di stabilità su come noi possiamo aggregare anche gli enti del ministero. Ci sono le condizioni per fare un buon mestiere. Mi dia qualche cifra su. Ma guardi, adesso sulla proiezione stiamo ancora lavorando, per cui io non voglio vender fumo. Dico solo che sicuramente noi taglieremo. Nell'ordine delle centinaia di milioni, no, si arriva al miliardo. No, per quel che ci riguarda, se parliamo di costi di struttura, ragioniamo di qualche milione di euro, anche perché in questi anni obiettivamente già si sono fatti dei tagli significativi. Poi accettiamo un'altra sfida, che è quella di riorganizzare ad esempio il sistema degli incentivi sul comparto, sapendo che ci sono alcuni incentivi che storicamente noi abbiamo avuto che possono essere riorganizzati, rimodulati. Lo abbiamo fatto anche recentemente. E se Padoan vi chiedesse di più? Ma Padoan ci ha già chiesto, ha già ottenuto, e quindi ci misureremo anche con lui, ne abbiamo parlato spesso, c'è un lavoro proficuo, ma io penso che la priorità sia riorganizzare la struttura interna, salvaguardando il pacchetto di misure a sostegno del comparto agroalimentare. E su questo mi faccia dire, se posso, che nei prossimi giorni noi presenteremo l'atto finale di Campo Libero, che è questo decreto agricoltura che abbiamo promosso con il Premier Renzi non più tardi di un mese e mezzo fa a Vinitaly, a Verona, e che idealmente, diciamo, si può concludere con Cibus. E in quel decreto vedrete che noi abbiamo una serie di misure di accompagnamento e di sostegno al comparto agroalimentare molto importanti. Allora, avremo modo di parlarne quando si concluderà tutto. L'ultima domanda che le voglio fare è una domanda più puramente politica. Allora, ieri abbiamo assistito ad un nuovo showdown sulle riforme, quel voto dell'ordine del giorno che non è andato bene per il governo, poi tutto è passato, anche perché il Presidente del Consiglio di fatto continua, come dire, a metterci la faccia. Occhio, votate questo, se no salta tutto. Quanto può durare questo gioco? Ma io sto al punto fondamentale, cioè l'obiettivo fondamentale di questo lavoro, spesso non semplice ma straordinariamente importante. Noi dobbiamo riformare le istituzioni italiane, superare il bicameralismo. Prima lo facciamo, meglio è per l'Italia. Il passaggio del Senato, naturalmente un passaggio complicato, ma tutti ci stiamo mettendo, credo, lo spirito giusto. Sinceramente non mi stupisce. Pensa che la sindrome del tacchino appesi sui senatori. Ci sono senatori che in maniera molto simpatica hanno addirittura regalato al Premier una spilletta del tacchino. Adesso, al di là di questo, è chiaro che è una discussione non semplice, ma è chiaro anche che c'è una determinazione veramente ad arrivare al dunque questa volta, che fa la differenza. Per cui io spero che questa agenda molto impegnativa anche sul piano della tempistica sia mantenuta, che il Senato possa discutere di come si fa un'operazione fondamentale per l'Italia, che è superare questo sistema bicamerale che oggi oggettivamente non corrisponde più ai problemi che l'Italia ha fuori dai palazzi. Naturalmente bisogna farlo bene, per cui ci sta anche la discussione, cioè è giusto parlarne, giusto anche... Un po' di sindrome del tacchino c'è, però. Vabbè, un po' di sindrome del tacchino c'è, ma ripeto, lo dicono loro stessi, per cui capisco anche il punto di vista di chi dal Senato deve lavorare al superamento di quella Camera. Però io sono fiducioso, penso che insieme potremo fare un bel lavoro. Grazie a Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. E saluto adesso invece Mario Mantovani, Assessore alla Sanità della Regione Lombardia e Vicepresidente della Regione. Buongiorno e benvenuto ai nostri buongiorno microfoni. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori, buongiorno. La chiamiamo per la vicenda Stamina, perché da quel che abbiamo visto ieri, lei ha fatto una sorta di appello agli ospedali lombardi perché riprendano, come dire, non a curare, ad utilizzare il metodo Stamina. Ci spiega un po' meglio? Sì, più che un appello agli ospedali, ho fatto un appello ai medici, ai medici lombardi, che si rendessero disponibili a sottoporre i pazienti col metodo Stamina per le infusioni. Noi siamo in una situazione di grande contraddizione in questo momento nel paese. Da un lato abbiamo dei giudici che ordinano le infusioni ai pazienti e indagano i medici che si rifiutano. Dall'altro abbiamo un altro pezzo di magistratura che invece indaga quei medici che infondono e che quindi attraverso il metodo Stamina trattano i pazienti. Siamo nel caos legislativo, soprattutto dovuto alla magistratura, più completo, e io ho il dovere, come uomo delle istituzioni, di difendere le famiglie da un lato, che sono protette dalla legge e dalle ordinanze giudiziarie, e dall'altro i medici, ai quali naturalmente va il mio sincero augurio di tener duro, perché giustamente se si rifiutano di fare le infusioni non possono essere considerati dei soggetti soggetti alla giustizia, alla legge. Insomma. Avete ipotizzato un'azione d'imperio, per così dire, Mantovani, per far sì che qualche ospedale lombardo utilizzi il metodo Stamina? Assolutamente no, ma ci mancherebbe se noi possiamo usare l'imperio. Intanto non abbiamo potestà legislativa su questa questione, c'era il ministro, c'era il governo, c'era il Parlamento, e quindi si sbrighino anziché chiacchierare. E si mettono nella condizione di poter dire che se è una pratica negativa che fa male ai pazienti, si faccia un provvedimento e la si sospenda, come un ministro precedente l'ha consentita. Se invece è una pratica che può essere praticata, come è stabilito dalla legge, allora ci mettono le condizioni di farlo con serenità. Questa è la nostra posizione. Lei non entra nel merito della cosa, dunque, insomma, non la ritiene discutibile la pratica di Stamina? Assolutamente discutibile, perché c'è una parte di magistratura che dice che addirittura si infonde del materiale pericoloso. e quindi è chiaro che io mi preoccupo, ma dall'altra ho dei giudici, l'ultimo di settimana scorsa, che vuol sottoporre un bambino alle infusioni e nel momento in cui questo bambino dovesse avere dei problemi, i medici che non ottemperano alla sentenza, alla disposizione del giudice, rischiano di essere indagati e magari tacciati di omicidio colposo. Mi dica lei se è una condizione possibile. Allora gli organi di governo facciano il governo e non le chiacchiere, muovano le mani, perché questo è quello che devono fare. Mario Mantovani, assessore alla sanità della Regione Lombardia e vicepresidente della Regione, grazie e buona giornata. Allora, non ci ha salutato, pazienza, insomma, lo diamo per fatto. Una pausa tra un attimo, parliamo di borsa, che oggi è particolarmente importante perché c'è Fiat che il giorno dopo la presentazione del piano Marchionne va tutt'altro che bene. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Parla Alfano sulla serata della finale di Coppa Italia. La polizia ha bloccato la reazione dei tifosi del Napoli, dice le condizioni di Esposito restano delicatissime. Tra poco scenderemo nel dettaglio sulla relazione del ministro. Il governo ha messo la fiducia anche al Senato sul decreto lavoro. Nella nuova versione multe per le aziende che sforano il tetto di contratti a termine, non più l'obbligo di assunzione. La donna uccisa a Firenze, tra poco a effetto giorno avremo Michele Giuttari che comandò il pool incaricato della ricerca del mostro di Firenze. Ci sono altre 11 studentesse in Nigeria rapite dagli estremisti islamici di Boko Haram, ora sono quasi 300, il mondo si mobilita, Obama dice è straziante. A chi ci chiede via SMS dove e come nel mondo esiste ancora un mercato degli schiavi o delle schiave, se questo è possibile, gli diciamo semplicemente di guardare lungo alcune strade. È il momento della borsa. Borse in diretta. E oggi, mentre siamo in diretta da Cibus, padiglione 4, stand 36, l'aggiornamento di borsa lo facciamo con la nostra Deborah Rosciani, che domani sarà qua per Cuore Denari. Deborah, buongiorno. Buongiorno Simone, grazie per l'anticipazione. Allora, per quello che riguarda la borsa, cominciamo un po' con il quadro generale, poi andremo ai casi della seduta di oggi. Naturalmente la grande attenzione, come è ovvio, è concentrata su Fiat. La seduta era piuttosto negativa questa mattina, poi c'è stato un deciso cambio di direzione, adesso prevalentemente gli indici hanno il segno più, Parigi più 0,48 e Francoforte più 0,7, più incerta Londra che perde ancora lo 0,10%, perde ancora lo 0,14% Milano, ma stamattina è arrivata a perdere un punto percentuale, quindi è stata risalita la china in maniera sensibile. Vado con Fiat, Simone? Sì, assolutamente direi, no? Meno 8,50% in questo momento per il lingotto a Piazza Affari, l'avvio è stato anche piuttosto difficoltoso per le contrattazioni questa mattina, dopo la diffusione del piano industriale, ma soprattutto il mercato ha bocciato i conti del primo trimestre che sono stati inaspettatamente chiusi in perdita. Il risultato netto è stato negativo per 319 milioni di euro contro l'utile di 31 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno, e questo è stato appunto il dato che ha più deluso, diciamo, le aspettative di mercato. La casa auto ha risentito delle poste straordinarie che sono state sopportate per chiudere l'accordo con Chrysler e rilevare la quota restante del 41% della casa automobilistica americana, e queste sono un po', insomma, le notizie che oggi incidono sull'andamento. Bene. Del titolo in borsa. Allora, Deborah, io ti ringrazio, e quindi domani gli ascoltatori, se vogliono, trovano te, Nicoletta Carbone, in diretta da qua, dal Cibus, a partire dalle 11 come sempre. Buona giornata, Deborah. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Come si diceva, è in corso la relazione del Ministero dell'Interno, del Ministro dell'Interno, sulle vicende della serata di Coppa Italia. L'aggiornamento da Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. È così l'informativa chiesta a gran voce dalle opposizioni, ancora in corso. Il ministro ha ricostruito quanto accaduto sabato sera fuori e dentro lo stadio. Gli scontri, ha detto, sono stati innescati da una provocazione di De Santis, ma è ancora da chiarire se abbia agito da solo in concorso con altre persone. I rilievi chiariranno se sia stato l'unico a sparare. Poi falso che la sicurezza sia stata lacunosa, ha detto Alfano, difendendo il lavoro delle forze dell'ordine che hanno dovuto sedare la reazione dei supporters partenopei, convinti che i responsabili riferimento di Esposito fossero appunto gli agenti. Proprio queste voci hanno innalzato la tensione. Alfano smentisce per ancora una volta la trattativa tra tifoserie, società e Digos e poi annuncia pugno di ferro contro la violenza nel calcio per restituire gli stadi alle famiglie, un pacchetto organico di misure che potrebbero partire dal prossimo campionato. E per il momento è tutto. Grazie Alessandra Schepisi e saluto Michele Giuttari, che era commissario ai tempi del mostro di Firenze e anzi guidò il pool incaricato di fare le ricerche, adesso uno scrittore di gialli. Buongiorno Giuttari, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Da quello che ha letto, da quello che si è visto su questa vicenda di Firenze, sulla prostituta seviziata e uccisa, le sembra che l'ipotesi di un serial killer sia, o quantomeno naturalmente di un maniaco seriale, sia probabile, se non certa? Ma guardi, se si dovesse trovare riscontro nelle analogie del modus operandi col caso precedente del marzo 2013, credo che l'ipotesi possa essere davvero attendibile. Tutto sta nell'esaminare, nel riprendere in esame il caso del 2013, dove la vittima non è morta, forse per una mera casualità, prendere in esame anche altri episodi di violenze sessuali che si sono verificati da quanto appreso dalla stampa nella zona tra Firenze e Prato. Se si dovessero trovare delle analogie, allora si può parlare di un serial killer che magari ha iniziato non subito uccidendo, ma compiendo degli atti di minore gravità, ecco, degli abusi sessuali, delle violenze, dei tentati omicidi, fino a raggiungere il massimo l'altro giorno, uccidendo la poveretta rumena e facendola trovare in una posizione che a mio giudizio sembra quasi una firma, un aver voluto lasciare la firma del suo delitto. Quindi se dovessero trovare riscontro queste considerazioni, credo proprio che si debba parlare di un serial killer che è sessualmente disturbato, che odia le donne, le vuole sottomettere a modo suo e le uccide, le tortura fino a ucciderle. E quindi è un elemento estremamente pericoloso che va identificato quanto prima, va catturato, perché un serial killer è portato a ripetere le proprie azioni anche in tempi molto più ravvicinati rispetto a questo. Senta Giuttari, so che il discorso sarebbe molto lungo, ma abbiamo in realtà solamente un minuto di tempo. Le voglio chiedere questo: all'epoca delle indagini, delle indagini sul mostro di Firenze, lei arrivò ad ipotizzare dei mandanti. Secondo lei c'è una qualche possibilità che ci siano dei mandanti anche in questo caso, e se secondo lei non sono mai stati presi, siano addirittura gli stessi? Ma guardi, l'ipotesi dei mandanti nella vicenda del mostro di Firenze è stata un'ipotesi dei giudici di merito che avevano condannato Vanni e Lotti definitivamente, quindi diciamo un'ipotesi abbastanza, più che un'ipotesi, c'erano degli elementi oggettivi abbastanza consistenti che poi però non è stato possibile dimostrare. Io credo però che questa vicenda non abbia niente a che vedere con la vicenda del mostro di Firenze né con i mandanti, è un caso a sé, potrebbe essere un emulo di quelle vicende tristissime, come un emulo di altri omicidi ai danni di prostitute che si sono verificati a Firenze, nella città di Firenze, dagli anni 80 e 85, quando il mostro tradizionale, definiamolo così, era in piena attività sulle colline. Grazie a Michele Giuttari per essere stato nostro ospite. Il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Detroit. Mario Platero, sono qui nella capitale dell'auto, dove ieri c'è stata una grande giornata, perché è nata la FCA, Fiat Chrysler Automobile, è nata dal punto di vista formale con un piano quinquennale